sono sempre quelli, e dunque vi invitiamo a riascoltarla naturalmente anche con lo sguardo di oggi. Si intitolava La luce dentro il cristallo e la potete ritrovare, credo, dentro altre dentro la voce altre letture del podcast. E allora Confucio, allora com'è possibile che nella Cina post-maoista, proiettata nella crescita economica e oggi in crisi, si senta il bisogno di ricorrere a Confucio, alla ricerca di che cosa e quali sono stati nel corso dei secoli i rapporti del confucianesimo con i poteri che si sono succeduti? Come mai così amato e così inviso il confucianesimo? E poi che cos'è? Religione, filosofia, forma di buon governo? A che cosa si ancora? Quali sono le prospettive per il futuro? Noi ne parliamo oggi con Maurizio Scarpari, sinologo, autore di molti studi su Confucio, sul confucianesimo, su questo ritorno di Confucio. I titoli li potete trovare in calcio alla scheda pubblicata nel nostro sito. Buongiorno Maurizio Scarpari. Buongiorno. Buongiorno. Lei tra l'altro è stato già nostro ospite, sì. In una serie invece sul taoismo certo. Assieme a Attilio Andreini. Certo. Ecco, dunque lei vive a Venezia, insegna a Venezia, però ecco, cominciamo subito da questa rinascita del confucianesimo in Cina, che è data a partire dalla metà degli anni Ottanta. Chi lo ha riscoperto e perché? E qual era la situazione della Cina in quella fase storica? Anni Ottanta del secolo scorso, cioè del Novecento. Dunque, fino alla fine degli anni 70, con il maoismo, ovviamente il confucianesimo era al bando, diciamo, era visto come la fonte di tutti i mali storici della Cina, per cui la necessità in quel momento sembrava quella di distruggere appunto il negozio di Confucio, come veniva detto. Ecco, ma perché veniva ritenuto causa di tutti i mali? Poi ci perché torniamo. Perché veniva ritenuta proprio la quintessenza di un sistema feudale che ormai doveva essere superato. In realtà è dall'inizio del Novecento che l'anticonfucianesimo ha avuto piede in Cina, cioè alla caduta dell'impero i primi intellettuali che hanno cominciato a mettere in discussione la struttura stessa del paese, che volevano cercare nuove vie anche seguendo l'influenza dell'Occidente, dove avevano studiato negli anni 20, 10-20 dell'inizio del secolo scorso, già allora il confucianesimo venne additato come la causa di tutti i mali. In realtà cioè, c'era ovviamente del vero in quello che si diceva, perché ovviamente bisogna capire bene cosa si intende con confucianesimo. La struttura sociale all'epoca era permeata completamente del confucianesimo, basti pensare alla famiglia. La famiglia era patriarcale e su base proprio confuciana, ma era veramente l'ossatura della Cina, cioè la famiglia era una famiglia estremamente allargata che poteva avere anche centinaia, addirittura migliaia di componenti, qui erano veri clan. Sì, addirittura c'erano dei villaggi che erano composti realtà da un unico clan, avevano tutti lo stesso cognome, per intenderci, soprattutto nella Cina del Sud. E questo aveva dei pro e dei contro, perché tutto avveniva lì dentro e ovviamente c'era una gerarchia molto molto molto stretta, regolata appunto da non tanto dal codice della legge, che pur c'era, ma quanto da una serie di norme tramandate, che erano state codificate secoli e secoli prima e che in qualche modo mantenevano una certa coesione sociale e anche servivano per un controllo sociale radicale, proprio molto cristallizzato su tutto il territorio dell'impero. Era funzionale quindi proprio anche il controllo, quindi c'era sia un aspetto quindi questo confucianesimo diciamo così allargato c'era, ma veniva ostracizzato dal regime perché non rispondeva alle esigenze di quel momento, non rispondeva ideologicamente. Questo nel periodo di rottura, diciamo, dopo la caduta dell'impero, ovviamente gli intellettuali che avevano studiato all'estero, che avevano quindi recepito tutte le nuove ideologie che si stavano affermando in quel periodo fuori dalla Cina, rientrati nel loro paese, vedevano in questo sistema un freno a un'evoluzione moderna del paese. Ovviamente non erano tutti d'accordo, nel senso che c'era invece chi sosteneva, basti pensare che Kang Youwei, che è stato uno dei grandi riformisti a cavallo dell'800-900, era nel 1912 propose invece esattamente l'opposto, cioè di fare del confucianesimo la religione di Stato. Ecco. E farla entrare nella Costituzione come la religione ufficiale dello Stato cinese, e per due volte tentò questa operazione senza nessun successo. Quindi diciamo che è un discorso molto complesso che ha più facce. Ecco. Più facce. Ecco, invece oggi questo discorso ritorna e con maggior successo. Allora, come mai in questa fase storica si sta riparlando del confucianesimo? Poi vedremo Confucio e confucianesimo, ma insomma si sta riparlando come di una chance per la Cina d'oggi. Sì, nel periodo della Cina comunista fino alla fine degli anni 70, come abbiamo detto prima, c'è stata proprio una totale cesura con la tradizione, con il passato, con questo tipo di passato della Cina, ma anche con l'idea della Cina tradizionale. Passava l'idea che bisognasse, come dire, ricostruire una nuova Cina su base completamente diversa. Ovviamente questa è stata una visione sbagliata, nel senso che ovviamente non si può rinunciare al proprio passato, non si può tagliare con le proprie tradizioni. E poi soprattutto in un paese così vasto, così popoloso, una cultura poi così millenaria e così forte. Con le campagne separate dalle città, quindi dove le tradizioni persistono, permangono. Sempre poi che la cultura cinese, voglio dire, corrisponde in tutta l'area dell'Asia orientale, esattamente come la cultura europea è rappresentata per l'Occidente, voglio dire, per cui è una cultura fortissima. Che ha svolto un ruolo importantissimo non solo in Cina ma in tutta l'area dell'Asia orientale. Tant'è che mentre in Cina negli anni 50, 60, 70 il confucianesimo era messo al bando, in altri paesi invece non lo era affatto. Basti pensare alla Corea del Sud, al Giappone, a Taiwan, a Singapore, dove venne sperimentato proprio un sistema di governo e di economia basata proprio sui valori confuciani, ritenuti come identitari di quell'area specifica del mondo. Ma oggi che cosa succede? Cioè questa crisi dell'identità cinese che appunto non succede è... che dopo 30 anni di maoismo, a un certo punto Deng Xiaoping alla fine degli anni 70, inizio anni 80, apre al mondo e la Cina cambia radicalmente. Lo sviluppo economico grandioso che ha avuto in questi decenni ha ovviamente cambiato tutta la situazione in Cina, ha creato una quantità di cose positive, di benessere, ha strappato 600 milioni di persone alla povertà, eccetera, ma ha creato anche degli squilibri o ha lasciato, come dire, insoluti i problemi che c'erano. Diciamo che, volendo proprio sintetizzare, il problema maggiore che si è venuto a creare è proprio quello di un vuoto spirituale, esistenziale, se possiamo dire così, proprio una crisi di valori, come ha detto lei all'inizio, una crisi di valori che alla fine, dopo insomma, di 35 anni di corsa al successo con lo slogan arricchirsi è bello, perché in grosso modo questo era un po' lo slogan che è passato, in una società estremamente competitiva per il successo economico è ovvio che si sono creati dei problemi, dei vuoti. Questo è un aspetto. C'è poi un altro aspetto, che è quello legato alla... Quindi il vuoto esistenziale ha bisogno di essere riempito da qualcosa di sostanziale, diciamo, da una riscoperta della propria tradizione, dei propri fondamenti. Sì, ma anche della propria spiritualità. Sì, l'altro aspetto che stava dicendo? L'altro aspetto invece è più legato alla sfera politica. Sì. Ovviamente... La Cina ormai è una potenza ormai a livello di leadership globale, è la seconda potenza economica dopo gli Stati Uniti ed è previsto che fra qualche anno diventerà la prima. c'è una competizione abbastanza forte, sia nell'ambito commerciale, sia nell'ambito economico in generale, sia nell'ambito politico, sia dell'affermazione, come dire, dei nuovi rapporti geopolitici che sono stati rimessi in discussione, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, l'ambizione della Cina, che è venuta fuori gradualmente, diciamo, dall'inizio di questo secolo in modo molto più esplicito con Xi Jinping, con l'ultima, diciamo, generazione, con l'ultima dirigenza, ha rotto gli indugi e ha deciso che era finita l'epoca della grande umiliazione, del secolo di umiliazione, come la chiamano i cinesi, iniziata ancora con le guerre dell'oppio a metà dell'Ottocento, che la Cina era pronta per riprendersi il suo posto di superpotenza sullo scacchiere internazionale, e che quindi non andava più bene lo slogan Deng Xiaoping di, come dire, avere un profilo basso e continuare a lavorare. Si poteva alzare la testa e con una maggiore dignità, come dire, affermare la propria posizione. Però assieme al vuoto esistenziale di cui lei ci ha detto, c'è anche un po' una crisi economica, nel senso che, insomma, le cose che si sanno, la corruzione dilaga, le diseguaglianze aumentano, manca, come dire, la questione dei diritti umani, ma manca un tessuto, come dire, unitario, di identità in questa nuova Cina protesa verso il futuro. Sì, questi sono problemi che ci sono, che appartengono al mondo, non sono solo della Cina ovviamente. Il problema che si è venuto a creare è uno scollamento sempre maggiore tra il partito e la, come dire, la cosiddetta aristocrazia rossa, o comunque la burocrazia che gestisce il paese ai vari livelli, uno scollamento tra tutti costoro e il popolo. Questo è l'elemento di maggior preoccupazione che si è venuto a creare negli ultimi anni, anche perché la gente adesso protesta con più facilità rispetto al passato. Non ci sono più quei vincoli. Un giovane di 20 anni oggi, grosso modo, rivendica le stesse cose che rivendica un giovane di 20 anni fuori dalla Cina, per cui non ha più, come dire, il freno di un retaggio ideologico che non c'è più. Il partito stesso deve ritrovare una sua legittimazione. E questa la sta cercando, esatto, Confucio. E questa sta facendo una cosa che è pazzesca, io l'ho definita una cosa straordinaria, cioè sta cercando di mettere insieme dei principi ancora del maoismo, perché non si rinuncia totalmente a quello che è stato il maoismo, che peraltro giustifica l'esistenza stessa del Partito Comunista come partito leader della Cina, con le aperture liberiste di Deng Xiaoping, che hanno di fatto reso ricca, se posso dire così, la Cina, e i valori etici confuciani, che in questo momento servono, a mio modo di vedere, soprattutto per riportare un'etica sia a livello individuale, sia a livello sociale, sia a livello politico, che si è andata via via perdendo. E quindi l'identità, quindi è come se ci fosse un filo rosso che va da Confucio a Mao Zedong, nonostante l'avversione, a Deng Xiaoping e poi a oggi, insomma. Non so cosa penserebbe Mao Zedong se tornasse tra di noi. Forse però lo capirebbe. Non sono tanto convinto. Comunque è un esperimento molto interessante dal punto di vista anche così della teoria, perché si sta cercando di creare un'ideologia che non ha precedenti, anche se queste forme di sincretismo in Cina sono apparse varie volte nella storia cinese, come poi anche nell'Occidente, diciamo, il sincretismo tra religione e potere, queste cose, ecco. Però facciamo un passo indietro, allora dopo vedremo anche in quale modo si sta organizzando questo ritorno di Confucio, ma andiamo un momento a Confucio, cioè che cosa sappiamo, figura storica, figura leggendaria, la datazione più o meno è nota, insomma diamo 2-3 coordinate per sapere di chi stiamo parlando e di che cosa. Allora, Confucio visse a cavallo del VI e del V secolo avanti Cristo, è ritenuto uno dei maggiori filosofi, forse il maggiore filosofo della Cina. Quindi questa fascia storica che ha visto poi una grande fioritura di pensiero religioso, filosofico e così via in tutto il mondo. Lui, diciamo, è proprio stato, ha dato l'inizio, se possiamo dire così, a quel periodo che va dal V secolo al secondo secolo, terzo secolo avanti Cristo, chiamato degli stati combattenti, in cui in realtà la Cina cercava di trovare una soluzione unitaria che poi sfocerà nel 221 avanti Cristo nella formazione del grande impero dei Qin. Ecco, noi leggiamo Confucio e troviamo questi pensieri, dopo vedremo il punto di chi sono così armoniosi eccetera, ma bisogna invece rendersi conto che sono nati in un momento di forti tensioni, conflitti, guerre. Dei momenti più drammatici della storia cinese, però anche dei più fecondi, perché la storia ci insegna che molto spesso in questi momenti si tira fuori il peggio, ma anche il meglio degli uomini. Qualcosa salta fuori. Infatti, aspettiamo anche qualcosa per il nostro tempo. Speriamo di aver già toccato il fondo, se posso dire. Senta, ecco, mito, leggenda, come si fondono insieme? La storicità al 100% non ce l'abbiamo, però ci sono dei manoscritti di recente scoperta su delle strisce di bambù eccetera che risalgono tra il IV e il III secolo avanti Cristo, quindi che sono almeno di un secolo e mezzo successivi al periodo in cui si ritiene che Confucio sia vissuto, che citano Confucio con i suoi vari nomi eccetera, per cui diciamo che quantomeno possiamo dire, proprio volendo fare i filologi, gli archeologi un po' pedanti, sì, che almeno un secolo e mezzo dopo il periodo in cui lui è vissuto c'è una, come dire, testimonianza della sua esistenza, per cui è possibile che sia una figura storica. Il problema è che le sue opere non hanno una dimensione così storica. Questo è molto interessante. Appunto, quelli che si chiamano i detti di Confucio, i dialoghi di Confucio, sono tutte delle raccolte successive che sono però invece queste sì attribuite quasi tutte, no? Ad alcuni autori o comunque a delle collezioni di detti e di frasi. Sì, diciamo che nel primo impero, tra il primo secolo avanti Cristo e il secondo e il primo dopo Cristo, in quei due secoli, di fatto sono stati canonizzati i cosiddetti classici della tradizione, tra cui i classici confuciani. Prima di quel periodo, cioè fino al secondo secolo avanti Cristo, non esistevano le opere con il titolo o il nome dell'autore. Erano tutti materiali sparsi che appartenevano a tradizioni in qualche modo, che venivano passati da maestro o discepolo, che venivano utilizzati nei vari modi, ma erano materiali ancora fluidi. Diciamo che col primo impero, una delle grandi operazioni che venne fatta nel periodo Han del primo impero fu proprio quella di mettere ordine in tutto questo, e da questo momento in poi i classici, anche i dialoghi di Confucio, come ha detto lei, esisteranno nella forma sostanzialmente in cui sono oggi. Prima però la realtà era molto più complessa, nel senso che c'erano meno distinzioni, come dire, di scuole, come si è portati a credere, e soprattutto venivano attribuiti a Confucio e ai suoi discepoli tutta una serie di opere che poi o in parte sono andate perse e si ritrovano oggi negli scavi archeologici, quindi è molto interessante quello che sta avvenendo, oppure sono confluite a pezzi in varie opere, per cui diciamo non esiste un'opera che possa dire questa è l'opera di Confucio. Esistono delle tradizioni da cui poi hanno preso il via tutta una serie di commentatori, di altri filosofi. Perciò forse è più corretto parlare di confucianesimo che non di Confucio. Sì. Infatti dico sempre che per esempio Mencio, che è stato il grande discepolo del IV secolo avanti Cristo, e Sunz, che è stato hanno contribuito più allo sviluppo del confucianesimo loro di quanto Confucio stesso potesse immaginare. E potesse fare. Ecco, un'altra cosa interessante, prima di venire appunto a questi fondamenti del pensiero del confucianesimo, è un po' la mitologia che cresce intorno a Confucio, no? Più ci si avvicina, cioè più passano gli anni, i decenni, e più crescono miti, leggende, come quella, non so, della sua nascita, della sua, tante cose si raccontano. E anche in queste ritroviamo analogie, una nascita virginale o qualcosa del genere. Sì, questo era un processo che un po' coinvolgeva tutti i grandi maestri della tradizione. Per dire che erano figure eccezionali, che quindi le loro vite non potevano avere uno svolgimento ordinario. No, certo, quindi dovevano in qualche modo, infatti nel primo periodo imperiale quello a cui assistiamo è proprio la canonizzazione di questi testi, anche ai processi di divinizzazione di questi personaggi. E qui poi si innesca un tema che piuttosto interessante sulla natura stessa di questo confucianesimo, perché in epoca Han, poi nel primo impero, diverrà ideologia di Stato. Lei giustamente ha detto all'inizio della trasmissione, bisogna anche capire bene di cosa stiamo parlando in questo confucianesimo, cos'è un'ideologia di Stato, una religione, una filosofia. In realtà è un po' tutto questo, nel senso che è soprattutto, io direi, una visione del mondo. È una visione del mondo in un'ottica completa che pone l'individuo e la società in un ambito cosmico universale unitario, e che quindi poi ha le sue varie declinazioni, che possono essere quelle di avere una tradizione letteraria fortissima, di essere un pensiero religioso filosofico, ma non è né una religione né una vera filosofia. In realtà dipende dal periodo storico in cui la si va ad analizzare. A dire il vero, poi non sappiamo bene che cos'è una vera religione, una vera filosofia, nel senso che sono entrambe sono categorie intrise l'una dell'altra, o intrise nella storia, insomma. Ecco, comunque, per venire ai principi guida del confucianesimo, se appunto si può dire qualcosa, in sintesi, lo deduco anche dai suoi libri, diciamo che c'è una sorta di armonia fra cielo, terra e umanità. Ecco, questa è la cosa che si ritrova sempre. E per esempio c'è questa, non so, abbiamo scelto un testo come prima lettura che non è per la verità proprio legato a Confucio, ma alla dimensione spirituale e religiosa cinese, che appunto nasce, che appunto racconta la nascita dell'Eterno Primigenio. E dice così, glielo leggo, poi lei ce lo spiega. L'Eterno Primigenio non è presenza manifesta, bensì materia indistinta, quiete, vacuità, materia immensa, quiete, immensa quiete, vacuità, immensa vacuità. Pur bastante a se stesso, l'Eterno Primigenio non è tuttavia saturo, e l'incipienza dell'universo da qui prese avvio. All'incipienza seguì il soffio vitale, al soffio vitale l'esistenza, all'esistenza l'inizio, all'inizio il procedere di ogni cosa. Ancora non esistevano cielo e terra, né sollecitazione al movimento, né era affiorata la vita. Il soffio vitale si genera da sé, nella prospettiva dell'eternità nessuno può generarlo. Si genera da sé e da sé si attiva. Nella prospettiva dell'eternità, la nascita del soffio vitale non è un fenomeno isolato, fa parte di un sistema di fenomeni correlati. Il soffio vitale torbido ha generato la terra, quello limpido il cielo. Nel suo diffondersi, il soffio vitale esprime davvero una potenza luminosa e divina. Ecco, qui colpiscono Maurizio Scarpari naturalmente le analogie con tutte le narrazioni cosmogoniche, il soffio, la materia, quello che c'era prima e quello che non c'era prima. Ecco, però c'è questa armonia tra cielo e terra che sarà sempre centrale negli scritti confuciani. Sì, e non direi non solo confuciani, cioè proprio è un'idea ricorrente. Vabbè, sì, poi c'è il Tao, in tutto il pensiero, ecco. Diciamo che questo testo è un testo potentissimo, tra l'altro un testo che è stato trovato recentemente alla fine del secolo scorso in una tomba, è un manoscritto su bambù, per cui diciamo è un testo nuovo, se posso dire così. E in realtà qui dentro c'è tutto, perché c'è questa energia cosmica, questo chi che pervade ogni cosa, da cui di fatto sembra poi provenire tutto, la terra, il cielo, e l'uomo che si colloca tra queste due entità superiori, tra cielo e terra, facendo suo questo chi cosmico che diventa l'energia vitale, il soffio, diciamo, per usare termini che ci sono più familiari. E quindi ecco che si crea questa triade, giustamente lei ha posto l'accento su questa triade, che diventa proprio il cardine essenziale di tutta l'elaborazione teorica di quel periodo, in particolare del confucianesimo. E qui si crea una distinzione molto precisa tra quello che è il Tao cosmico, il Tao dei taoisti, se posso dire così, che è un'entità inafferrabile, un'entità superiore, e invece il Tao dei confuciani, che invece è molto più alla portata umana. E questo è il grande, come dire, la grande idea che ha avuto Confucio. Cioè esiste una versione, se posso dire così, terrena del Tao. E questo Tao è conoscibile, in qualche modo è interpretabile ed è anche modificabile, ci può intervenire, e questa è una grandissima novità nel panorama filosofico. Quindi fra cielo e terra c'è la figura dell'essere umano che, pur con tutte le sue deviazioni, scombinato e così via, potrebbe far parte di questa perfezione attraverso la perfezione morale. Leggiamo allora un altro passo, perché ecco, si capisce bene come cielo, terra, uomo possono costituire, anche se a noi sembra che invece l'umanità porta una sorta di disordine, ne parlavamo anche due settimane fa con Vito Mancuso, porta una sorta di disordine nel cosmo, però qui è indicata anche una via di perfezione. Allora dice un altro testo: nulla è meglio della perfezione morale per la persona esemplare per virtù e nobiltà d'animo che coltiva il proprio cuore. Raggiunta la perfezione morale, non resta che attenersi fermamente ai principi dell'amore per il prossimo e mettere in pratica i principi di rettitudine e giustizia. Se con animo sincero ci si attiene ai principi dell'amore per il prossimo, questi prendono forma. Presa forma, diventano numinosi, essendo numinosi sono in grado di produrre trasformazioni. Se con animo sincero ci si attiene ai principi di rettitudine e giustizia, si è in accordo con i principi dell'ordine naturale. Essendo in accordo con i principi dell'ordine naturale, si diventa perspicaci, essendo perspicaci si è in grado di produrre metamorfosi. Far sì che trasformazioni e metamorfosi si susseguano in modo ordinato è ciò che si intende con l'espressione potenza maestosa del cielo. Sì, testo molto bello, tratto da una delle opere più alte, diciamo, del confucianesimo classico. Qui siamo già nel periodo imperiale, quando è stata formata quest'opera, ma diciamo deriva da una serie di idee della corrente, se posso dire così, più idealista del confucianesimo. Sì. Noi dobbiamo tener conto che ci sono un po' sempre queste due correnti che tengono distinte, quella più autoritaria, se posso dire così, che forse è quella che attrae di più Xi Jinping oggi, e quella invece più idealista, che è quella che dà a me più speranza oggi, se posso dire così. E che fa più presa forse sul, e che secondo sul, me sul popolo. Se vuole poi di questo parliamo un attimo, perché il senso parliamone vero adesso, perché in realtà sì, no, voglio dire, è quello che poi è successo anche in Occidente, no? Mettiamo col cristianesimo, da una parte c'è una potenza di quella parola molto ideale, questo amore per il prossimo, che poi vediamo anche qui enfatizzato e ripetuto e messo al centro, e poi dall'altra invece c'è l'accorpamento col potere, quindi ecco, sono parallele queste storie. Certo, e dipende, infatti anche, diciamo, gli studiosi della Cina contemporanea oggi tendono a non cogliere, secondo me, fino in fondo la portata straordinaria di questo fenomeno di recupero della tradizione confuciana. Perché? Allora, il confucianesimo è fatto proprio delle cose che ha letto lei, cioè proprio è un tutt'uno tra il cosmo e l'individuo. L'individuo in qualche modo ha solo il compito di decodificare quelle che sono le regole cosmiche e tradurle in regole per gli umani, sono le cosiddette regole di convivenza civile, i riti e quello che vogliamo, e attenersi a queste. Se riuscirà ad attenersi a queste e a comportarsi in modo corretto, senza stravolgerle, eccetera, sostanzialmente è in sintonia, diciamo, con i flussi cosmici. Adesso ho banalizzato, ma sostanzialmente questo è il principio che in qualche modo, come dire, unisce l'uomo al cielo, al cosmo, al trascendente. Quali sono gli elementi fondanti di questo pensiero? Sono delle virtù che secondo me sono poi universali. C'è l'armonia, ma c'è l'amore per il prossimo, l'amore filiale. Il rispetto filiale è una delle virtù principali, soprattutto in epoca imperiale. C'è l'empatia, il rispetto per gli anziani superiori, ecco qui l'importanza per oggi, la lealtà, l'affidabilità, il coraggio di chi sa di essere nel giusto, la conoscenza superiore, il senso di ciò che è corretto, che è giusto, E quindi, voglio dire, sono tutti valori, per così dire, universali, ma il confucianesimo è fatto di questo. Ecco, naturalmente si capisce che poi però c'è un pericolo molto forte, cioè che il potere si fondi su un ordine naturale e quindi diventa un potere conservatore. Sì, e questa è stata una delle critiche al confucianesimo, e lo è tutt'oggi, non solo conservatore ma autoritario soprattutto. Infatti oggi chi non coglie la portata di questo fenomeno tende a dire sì, però il confucianesimo, cioè Xi Jinping, che è in difficoltà e che deve in qualche modo cerca una legittimazione per il partito, in realtà cosa fa? Si rifà uno strumento autoctono, tradizionale, che è stato in qualche modo verificato nei secoli, che funziona benissimo, per avere un maggiore controllo sociale. In effetti questa cosa non è che manca di fondamento, perché in realtà in Cina stiamo assistendo in questi anni a un progressivo irrigidimento della dirigenza, e Xi Jinping è un grandissimo accentratore di potere. E infatti si vede anche dalle notizie che arrivano in queste settimane di repressioni. Sì. Ora, teniamo conto che la stampa occidentale tende a enfatizzare dei processi che cioè ci sono, ma che dovrebbero essere contestualizzati meglio, secondo me. Però è indubbio che ci sono dei problemi. È anche vero che non è facile, trovare la soluzione ai problemi che hanno in un paese che ha 1.400.000.000 di persone, che ne ha portati fuori 600 milioni dalla povertà, e che non vuol dire molto, perché uscire dalla povertà assoluta vuol dire uscire dallo standard di $1.25 al giorno. Però trovarsi con $2 al giorno non è che proprio si navighi nell'oro, per cui i problemi sono notevoli. Però più che in realtà c'è una concentrazione di ricchezze impressionante in poche persone. Adesso sappiamo, l'ultima statistica ha detto che è il paese dei ricconi, 100 super miliardari contro i 95 degli Stati Uniti, per cui c'è una concentrazione, c'è un gap tra i ricchi. Però il confucianesimo può servire anche a questo, perché con questo ordine naturale. Questa infatti è la sfida. Allora, mettiamola così, è strumentale, a un controllo maggiore, quindi repressivo, autoritario, politico, o in realtà si è avviato un processo di cambiamento proprio della società, che aveva cercato di rompere con una tradizione umanistica, se posso chiamarla così, e che adesso di cui si sente di nuovo l'esigenza? Allora, ci sono tutti e due gli elementi, ma ci sono due cose almeno, secondo me, che fanno sperare bene, anche se al momento si può pensare che ci sia sicuramente anche un uso strumentale. Innanzitutto c'è una campagna enorme di diffusione dei valori confuciani, che è impressionante, con tutti i media possibili, con tutti i mezzi di comunicazione possibili, veramente ormai è una campagna a tappeto, e soprattutto si è reintrodotto nelle scuole, fino dalle scuole materne, fino dai livelli più bassi della scolarizzazione, si è reintrodotto lo studio dei classici confuciani. Questa è una cosa di portata enorme, di cui bisogna cogliere la potenzialità, perché inserire nelle scuole, questo è proprio esattamente il sistema pedagogico confuciano. Quando i confuciani volevano capire come affermare il confucianesimo nella corte imperiale, cosa hanno fatto? Hanno detto: sai che facciamo? Diventiamo i tutors dei figli degli imperatori e dei nobili, così poi loro saranno più sensibili verso le nostre. Ed è andata proprio così. E quindi siamo ritornati a una scolarizzazione, quindi a un processo di confucianizzazione all'interno delle scuole, che avrà dei risultati non immediati, ovviamente, perché ma nel tempo. Se Xi Jinping fosse veramente portato solo a vedere l'aspetto autoritario e opportunistico, strumentale del confucianesimo, vorrebbe dire che ha una vista corta, perché questa cosa alla lunga creerà nelle nuove generazioni, che cresceranno invece dando un peso alle virtù, interiorizzeranno i valori, gli ideali confuciani. Lei è davvero ottimista, però. cioè le nuove generazioni. Io penso che l'educazione daranno peso alle virtù. Questo è quello che verrà inculcato loro. Questo è quello che verrà inculcato loro nelle scuole e che viene in qualche modo promosso a tutti i livelli. Cioè, come dicevo prima, attraverso la televisione, film, è tutto orientato adesso al recupero di queste cose. Ti per confuso. Cui si sta creando. C'è un movimento che da qui non si riesce a percepire. Sì, sì. Ecco, tra l'altro, appunto, una di queste massime, gli fu chiesto a Confucio quali sono le 5 virtù basilari. Confucio rispose quello che lei diceva prima: deferenza, magnanimità, affidabilità, zelo e generosità. Se sarai deferente non verrai insultato, se sarai magnanimo conquisterai il favore di tutti, se sarai affidabile tutti riporranno fiducia in te, se sarai zelante conquisterai molti successi, se sarai generoso riuscirai a disporre degli altri. E questo naturalmente un po' a doppio taglio, cioè generosità. Certo. Sì, infatti, ma a proprio vantaggio. Quindi bisogna vedere come verrà poi interpretato. Però i valori fondanti della solidarietà, dell'empatia, dell'amore per il prossimo, non sono che oggi stentano a esserci. Basta vedere la differenza che c'è, proprio che si coglie nell'aria. Se si sta per un periodo, non so, in Cina o in paesi dove questi valori non sono mai stati abbandonati, tipo il Giappone, la Corea, Taiwan. Cioè, si respira proprio un'aria diversa. Cioè c'è un'educazione diversa e questo si coglie. Quindi ritornare, come dire, a dare importanza, ma non importanza così, come dire, distaccata, ma avercela dentro questa cosa, che solo attraverso un'educazione molto, molto forte si può ovviamente ottenere, è un fenomeno che secondo me potrà produrre, sicuramente produrrà dei cambiamenti sociali. In quale direzione ovviamente non lo possiamo non lo vedremo. Forse non lo vedremo. Senta, neanche. Scarpari, dunque ecco, il confucianesimo non è religione di Stato, mentre sono ammesse, anzi non è neanche considerato tra le religioni ammesse in Cina oggi, che sono 5-6 mi pare, o 5, che sono cattolicesimo, protestantesimo, buddismo e islam. Sì, ecco. Esatto. E invece il confucianesimo è a parte, perché? Beh, intanto è a parte perché appunto quando è stata fatta la Costituzione alla fine degli anni 40, inizio anni 50, per togliere 50, una religione, ma il confucianesimo era inviso, per cui era quindi non ci sia stato neanche un dibattito su questa cosa, è stato proprio eliminato. Però ecco, lei consideri che per esempio è religione di Stato in Indonesia e a Singapore. In Indonesia e a Hong Kong. Hong Kong sta facendo un lavoro di proselitismo enorme. A Hong Kong nel 1930 è stata fondata un'associazione da Chen Huanzhang, che era un discepolo di Kanye Wei, che nel 1912 era stata fondata un'associazione, l'associazione religiosa confuciana, che però non aveva portato a nulla. Nel 30 Chen Huanzhang va a Hong Kong, fonda lì un'associazione religiosa che ha avuto una importanza enorme in tutta l'area dell'Asia orientale e che adesso è molto attiva anche nella Cina continentale e che investe anche risorse economiche ingenti per aprire scuole private, per incentivare in ogni modo lo studio. Si potrà arrivare al confucianesimo come religione di Stato e secondo lei è auspicabile o no? Ma secondo me è difficile, cioè, oggi come oggi è difficile. Tenga conto che c'è comunque un ripensamento generale su tutte le religioni, cioè non è un fenomeno che riguarda solo il confucianesimo, ma riguarda anche il taoismo, il buddismo che stanno vivendo, e lo stesso cristianesimo, insomma, che stanno vivendo dei momenti di, come dire, di maggiore apertura, di apertura, che adesso vedremo come poi andranno, perché ovviamente sono sempre aperture controllate poi dall'alto. Però insomma i processi in Cina sono sempre molto lunghi, per cui bisogna vederli nel tempo e non è presto per capire dove andrà a finire. Secondo me il confucianesimo offre un vantaggio rispetto alle altre religioni, perché non essendo una religione veramente, in qualche modo risolve un po' l'aspetto, diciamo, spirituale in cui genere ci si riferisce con le religioni. Ecco, spirituale cosa vuol dire rispetto al confucianesimo? Velocemente, abbiamo un minuto. Che rapporto si stabilisce con il confuciano, diciamo? Allora, il confuciano non pensa, cioè non esiste in Cina, come tu dici, sei buddista, sono taoista, sono cristiano. non esiste uno che dice sono confuciano come se fosse una religione, però c'è un culto, per esempio ci sono i tempi di Confucio, il tempo di Confucio sì. Chufu è importantissimo eccetera, e ci sono anche dei riti che vengono fatti, però non esiste un vero clero, non esiste una chiesa strutturata, c'è il tentativo da parte di molti attivisti di creare questa cosa, però diciamo non esiste storicamente, non è sì. così il confucianesimo, non è questo. Però sta prendendo delle forme strane, perché poi nel mix ormai globalizzato ecco. in cui viviamo sì. Ci sono manifestazioni che sembrano proprio religiose, per esempio Shenzhen c'è un'associazione confuciana che invece professa proprio, cioè ci sono... Va bene, io mi dispiace ma su sì. questo la devo fermare. Maurizio Scarpari, sì. grazie molte per le cose che ci ha detto e staremo a vedere come evolve il confucianesimo. Benissimo. Una buona giornata a lei, buona giornata a chi ci ascolta. Ricordo che il programma è condotto il sabato da Brunetto Salvarani, la cura di Paola Tagliolini, redazione e regia Benedetta Caldarulo, tecnici del suono di oggi Alessandro Cesolini e Piero Brancali. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima, sabato e domenica alle 9:30 su Radio 3.